In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi. Oggi è il 31 ottobre 2011, ultimo giorno del mese di ottobre. E facciamo gli auguri a San Wolfgang, cioè a tutti coloro che si chiamano Wolfgang, che penso che soprattutto qua in Sicilia saranno ben pochi. Facciamo gli auguri a Kim Rossi Stewart, Amanda Sandrelli, Franco Gasparri, Bud Spencer e Edmondo De Amicis. Liberi, ci sembra di essere più liberi, se dalle nostre mani non cadranno più parole te. Noi due. E sarà più semplice sorridere alla gente senza chiederle se sia per sempre o duri un solo istante, poi che ce ne importa a noi. Tanto basta così. Così scendiamo qui, qui, che senza di noi c'è la libertà. Sì, ma basta così, così, fermiamoci qui. Farò pugni contro il muro per averti ancora qui. Quindi, come già detto prima, facciamo gli auguri di buon compleanno a Kim Rossi Stewart, Amanda Sandrelli, Franco Gasparri, Bud Spencer e Edmondo De Amicis. Nel 97 succedeva una grave notizia di cronaca. Infatti all'Istituto Galeazzi di Milano un incendio nella camera iperborica causava la morte di 11 persone. Nel 97, una notizia sicuramente migliore, Patrick Gaillardot si lancia sul Monte Bianco da 6.000 metri senza paracadute. Nel 93 a Roma muore Federico Fellini e nel 1978 entra in vigore la legge sull'equocane. Continuiamo con la musica. Poi è stato certo facile tornare qui da te. Avrei voluto scappare lontano, ma molto lontano, e non chiederti se l'ultima volta che hai rubato il giorno al mondo era per me, o forse non ero a corrente che il tempo ti accorgevi di me, se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te, che mai mi venivi a salvare. Accorgevi di me, se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te, che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me, perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare. Proprio adesso che voglio soltanto morire, su quelle tue labbra c'è ancora posto per me. E come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me, sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te. Nelle tue mani si senti, avrò cura di te, ora che io so sentirti, avrai cura di me, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti. Abbiamo sentito due bellissime canzoni di musica italiana, questa di Noemi che si intitola Odio e tutti i cantanti. Consigli commerciali e poi ripartiamo sempre con la musica. Slalom. Flashback. Come già detto prima della comunicazione pubblicitaria, delle pubblicità che vi abbiamo dato questa mattina alle 9.50, partiamo con una bella canzone di qualche tempo fa, non prima di avervi ricordato che questa è CRM Happy Radio, la vostra radio. Vi ricordo anche i nostri numeri telefonici che sono 0921 92 32 92 335 56 37 251. Sito internet www.crmepiradio.it. Questa è Marcella Bella, Aria. E domenica tu chissà che cosa fai. Ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi. La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. La mia mente è chiara, ma a volte è più forte il sesso. La mia gatta è ancora lì, non parla ma dice sì. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Senti che bel sogno che ho fatto. Era ancora vivo il mio gatto. Mamma aveva fatto la spesa. Io sul mio divano ero stesa. Nel mio sogno ho visto mio padre, aveva una valigia da fare sul letto, mentre la riempiva diceva gioia, forse questo è l'ultimo viaggio. Io che solo adesso ho capito capito quanto poco c'era da fare. Nel mio sogno avevo picchiato di brutto la donna per cui se n'è andato mio padre. E la vita mi parla in sogno. E la vita mi parla così. Io che mia madre non ho mai visto piangere. Io che mia madre non ho mai visto piangere, piangere. Soli. E il mio sogno non è finito. Io in quel pomeriggio morivo. Ho chiamato Marta piangendo. Sono andata a piedi da lei, pioveva. Mentre camminavo grondavo. Da un tombino è uscito un bambino piccino. Mi seguiva. Piangere, io che mia madre non ho mai visto piangere, piangere, piangere. Che grande il sogno che ho fatto, di cose ne ho passate, Nell'ultimo ventennio le foreste europee hanno aumentato la loro superficie di 800.000 ettari l'anno e questo sicuramente è dato dalla buona salute dei polmoni verdi dell'Europa, che è dovuta sia alla naturale espansione delle piante sia anche alle politiche di riforestazione avviate da vari paesi come la Comunità Europea, l'Unione quindi Europea, la Turchia, l'Ucraina e la Russia. Quindi sicuramente questo è un bel sogno perché ci dà l'opportunità di sperare bene. Continuiamo ancora con i consigli commerciali, poi rientreremo in studio con una bella canzone di Slalom. Flashback. Drammi tra noi, diverso da bere, metti un disco se vuoi, non ti darò dei consigli, non servono, ho fatto già troppi sbagli, se non lo sai. Troverai accanto a te, qualunque sia la scelta che adesso tu farai, io non ti lascio mai. Quanti veleni hanno sparso tra noi, tu non farci caso, se ancora lo puoi, le offese, i rimpianti e le accuse non contano. Nessuno di noi cerca scuse, se non lo sai mi troverai accanto a te, qualunque sia la strada che adesso prenderai, ti volterai e mi vedrai. Io ci sarò se un giorno avrai bisogno tu di me. Tra noi due c'è una guerra al giorno, ma nessuno vince mai. Penserai, oh, mi troverai. Mi troverai, accanto a te. Sia la vita che domani sceglierai, ti volterai e mi vedrai. Io ci sarò se un giorno avrai bisogno tu di me. Mi troverai accanto a te. Sai, ti aiuterò e tu mi aiuterai, ma non ti lascio mai. Io non ti lascio mai. Massimo Ranieri con questa bella canzone dedicata alla figlia intitolata Mi troverai. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Si pensa che i bambini siano più abili ad imparare le lingue, invece c'è stato un test che ha scoperto che gli uomini di una certa età siano più pronti a ricordare i vocaboli. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. And stay. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives, we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Che bella questa canzone di Adele che questa mattina abbiamo ascoltato grazie ad una richiesta giunta al nostro numero telefonico proprio da Teresa, che salutiamo. Devi pagare un mutuo? Aspetta un anno. Un po' di ossigeno per le famiglie italiane alle prese con il pagamento di un mutuo. L'Associazione Bancaria Italiana ha prorogato quindi di 6 mesi, dal 31 gennaio 2012, il termine per presentare le domande per la sospensione delle rate. Le famiglie in difficoltà quindi potranno sospendere i pagamenti per un anno. Continuiamo, consigli commerciali, poi rientreremo in studio con Slalom. Flashback. Cause we're living in a world of fools, breaking Slalom. Flashback. credito d'imposta per nuovi investimenti, software di compilazione e così via. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il software per la compilazione delle istanze ai fini del credito d'imposta per nuovi investimenti di cui è la legge regionale numero 11 del 2009. Vi dovete collegare praticamente al sito dell'Agenzia delle Entrate, che è www.agenziaentrate.gov.it. Nella sezione primo piano occorre cliccare sulla news credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in Sicilia e successivamente sul link compilazione e invio. Da questo ultimo sarà possibile accedere all'apposito link software di compilazione. In bocca al lupo, perché parte da giorno 3 di novembre questa credito imposta. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Mangia meno e vivi di più, e questo, diciamo, tra virgolette, il piccolo segreto per vivere a lungo. E poi io direi anche senza fare tanta disperazione nella vita, senza andare incontro a quelle che sono le difficoltà del quotidiano. Il credito d'imposta è sicuramente quello che abbiamo detto poc'anzi, può dare un aiuto a tutte le aziende che siano in regola con determinati parametri, però ahimè io ho qualche dubbio, considerando il fatto di conoscere leggermente un po' il tessuto economico della Sicilia, le aziende non siano a posto col DURC, e quindi sa, il credito d'imposta poi sempre viene marginato a pochissime persone, a pochissime aziende che possono accedere, ma del resto se si è in regola è giusto che quelli che sono in regola e che hanno pagato i contributi vanno un avanti. Continuiamo ancora con la musica, questa è una richiesta dei Goldplay con Paradise. When she was just a girl, she expected the world. She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise. Para, para, paradise. Para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Fly. Benché il sogno dell'immortalità sia ancora lontano mio, oggi si può però auspicare di vivere di più e soprattutto meglio. Se si riduce l'apporto calorico e curando lo stile di vita si può vivere più a lungo e meglio. Il resto dipende sicuramente dai geni. Questo è un argomento che affronteremo e che vedremo un pochettino di capire. Continuiamo ancora con la musica. Questa è una richiesta giunta al nostro numero telefonico. Lui è Noel Gallagher, che lo sentiamo già in sottofondo. È sicuramente un pezzo che sta andando abbastanza alla grande, alla moda. È richiestissimo. È primo nei iTunes. The Date of You and Me. Vediamo l'ex velina, Michael Brooks, attore americano di colore, dove non si nascondono più, quindi la Canalis fa coppia con questo nuovo amico un po' particolare. Il gossip ha cominciato a pompare questa notizia in prima pagina. Adesso consigli commerciali, poi ripartiremo con della musica datata, CRM e comunque dei flashback. Buon ascolto. La poesia è una forma di comunicazione con la quale si manifestano agli altri momenti di vita vissuta, emozioni private. La mente sa interpretare le emozioni, sa organizzare le nostre percezioni, sa individuare relazioni, sa costruire schemi e sa muoversi anche al di fuori di essi. Buongiorno Michele, come stai? Grazie Francesco, buongiorno a te. Comunque raggiungiamo queste belle parole che il mondo non è più lo stesso dopo che gli si è aggiunta una bella poesia, lo diceva Dylan Thomas. Vero, questa... Quindi c'è un cambiamento radicale anche nel mondo, vedi, questa la poesia riesce a smuovere, anche a cambiare, in positivo comunque. Bene, tu come va? Bene, abbastanza bene, hai avuto un buon fine settimana, io ho portato i bimbi al cinema, hanno visto le avventure di Ben 10, una cosa del genere. Benissimo, guarda, quello dei bambini è una cosa molto importante. Ma la cosa importante, scusami se ti interrompo, è una cosa: vedere i bambini che ridono a squarciagola, cioè ridono con tutto il cuore, come questa si è una cosa dire. Bellissima, guarda, soprattutto mi fa piacere un genitore che curi questo aspetto, diciamo, dei bambini e che li accontenti, ma anche un po' viziando, io non tanto. Beh, no, ma no, anche con questo fatto di essergli vicino anche durante uno spettacolo, una proiezione, anche se il film non è molto adatto al genitore, però deve far finta che lo sia. Sì, no, anche perché poi i bambini, io vedevo non solo i miei ma anche gli altri, cercavano di coinvolgere i genitori con l'hai visto papà, l'hai visto mamma e così via. Ma questa è una cosa bellissima. Sì, è stato veramente delizioso. A volte, vedi, noi dimentichiamo che i bambini sono il futuro del mondo. Se noi loro diamo questi aspetti così piacevoli, positivi, la famiglia, la vicinanza, il genitore, la mamma, i parenti, questi valori anche della socializzazione, è chiaro che questi bambini domani non saranno guerrafondai, questi bambini non ameranno prestare i famosi pulsantini per distruggere nazioni e uccidere uomini, ma costruiranno. E questa la bella, ecco, il rapporto che oggi noi sembra così, vabbè, mi portavo il bambino a scrivere, invece è fondamentale, ecco perché lo dico. Io oggi non ti nascondo che, avendo trascorso una giornata particolare ieri, molto bella, e anche a contatto dei bambini, ma soprattutto della poesia e della gente, e questo oggi, io pensavo ai bambini oggi, guarda, non ti nascondo che avevo preparato una poesia sui bambini, diciamo, non volevo rubarti molto tempo, anche perché richiederebbe un po'. No, ma tu non mi rubi del tempo, anzi, io sono grato della tua partecipazione all'interno di questa trasmissione, stiamo cercando di fare un percorso come portare il messaggio della poesia, anche perché la poesia, secondo me, è un... chi fa poesia innanzitutto si deve divertire, e chi l'ascolta deve trasmettere questo modo di vivere gioioso da parte del poeta alla persona che riceve la poesia. Non so se mi sono spiegato o se mi sono incartato con le parole. Il mio pensiero è molto vicino al tuo. Ma volevo chiederti una cosa, due cose. Prima facciamo un... come è andato la presentazione del libro? Tu avevi sabato pomeriggio a Palazzo Stedi la presentazione del libro del tuo amico. Sì, come... Ok, come è andata? Guarda, è andata benissimo, avevamo un salone bellissimo, poi lo Stedi, un palazzo storico, palermitano, pienissimo, delle relazioni della professoressa Franca Laimo e dell'esimio professore Salvo Zarcone, guarda che ha incantato il pubblico. E io con immodestia è molto preso un po' dalla così dalla suggestione, vogliamo dire, comunque ho letto tre brani del libro, così come di accompagnamento, diciamo, alla loro presentazione, e anche un'allattrice, Alessandra Balletti, ha letto altre parti del libro. Ho capito. Ma è stato veramente una bella, piacevole, un bel pomeriggio. Ok, ma possiamo avere il piacere qualche giorno di averlo ospite anche radiofonicamente, telefonicamente? Credo proprio che gli farebbe tanto piacere, anche perché lui ha ascoltato i podcast di cui ho parlato io, e proprio ieri ho trovato un suo messaggio, un'email, che io non sono stato a casa ieri, dove mi parlava di questo fatto che aveva ascoltato. Ho capito, perfetto, così magari avremo l'opportunità di sentire le sensazioni di questo scrittore che ha scritto questo libro di recente fatturazione. Ma un'altra domanda ti volevo fare, caro Michele, lo scopo della poesia tua? Lo scopo della poesia, guarda, visto che abbiamo parlato della mia giornata di ieri, mi capita a fagiolo, come si suol dire, la poesia, a volte noi cerchiamo di filosofeggiare attorno al ruolo della poesia, cosa deve fare, ma allora si fanno convegni, dicono paroline. Io ho scoperto soltanto una cosa, che la poesia è semplicemente la voglia di stare insieme agli altri, di comunicare con gli altri, di mangiare con gli altri, di divertirsi con gli altri, di parlare con gli altri. Ieri l'associazione Termini d'Arte, proprio di Termini Imerese, ha organizzato una gita escursione poetica, storica, sociale e anche mangiereccia a Saleni. dopo un'altra associazione l'ha accolta, l'associazione dei poeti per Sosicania, hanno accolto questi poeti provenienti dal palermitano. Io ero fra loro, invitato, e quindi abbiamo fatto siamo andati a vedere i luoghi degli famosi scontri garibaldini, quindi chiaramente Calatafime, poi abbiamo proseguito per Salemi, dove abbiamo visitato il museo risorgimentale, molto interessante, il museo anche religioso, dove ci sono anche delle opere favolose, anche dei nostri artisti non contemporanei del passato, mi sfugge il nome, comunque. E poi c'è un museo che hanno fatto da poco, il museo della mafia, dedicato alla mafia, che è assolutamente da vedere, ma più che da vedere da ascoltare, Questo è Salemi. È un percorso particolarissimo, sì, Salemi. Poi si è mangiato e alla fine al castello, che è un castello restaurato, abbiamo fatto un recital poetico in un salone bellissimo del restaurato, appunto, di questo castello, e io mi dicevo questo: ecco la funzione della poesia, socializzare, viaggiare sullo stesso pullman, tirare fuori il repertorio siciliano delle nostre canzoni popolari, questo è socializzare. Ecco il ruolo della poesia. Questo percorso lo avete fatto voi solo i poeti oppure era aperto anche al pubblico? Com'era? No, l'associazione non era formata tanto da poeti, chiaramente invita i poeti, i loro familiari, amici. Certo, perché eravamo un po' di poeti inseriti in questo contesto, anche perché ci si incontrava con gli altri di Salemi, quindi c'è stato questo scambio di poesie reciproche tra l'italiano e il dialetto, quindi. Bene, ma una cosa, una curiosità personale, ma di poeti ce n'è veramente tanti in Sicilia? Magari parliamo di Palermo e provincia, o magari Palermo e Trapani? È una domanda molto difficile e insidiosa, perché se ti dico o quelli che si chiamano poeti, che si fanno chiamare poeti, non come? O quelli che passano per poeti? Guarda, siamo sempre lì, io non mi reputo poeta perché scrivo, riformuliamo la domanda. Ci sono tanti poeti qua in Sicilia? No, me lo dovresti riformulare nel senso: c'è molta gente che scrive? C'è molta allora ti rispondo subito. C'è molta gente che scrive. Vabbè, ok. Non sono io, un diretto interessato, quindi scrivo anch'io, quindi non posso dirlo io se siamo in molti poeti o siamo in pochi, o sono pochi, ho capito, prediletti. Comunque devo dirti la verità, una cosa che mi costa, perché io ho frequentazioni quotidiane, diciamo, con questo mondo, e con tanti amici che mi onorano, da Catania a Messina, eccetera, eccetera, dal Trapanese, quindi vivo questa realtà. Ho capito. E ti dico una cosa, c'è molta gente che scrive molto bene, ma soprattutto in lingua, stranamente, guarda. Molta gente che sa scrivere bene libri, e non ti nascondo che ci sono anche dei torsioni di poeti che scrivono in dialetto, che io apprezzo e amo. Sì, hai sempre sostenuto in questi incontri che noi abbiamo fatto telefonicamente, comunque l'espressione della poesia in dialetto siciliano è quella che ti colpisce in maniera particolare. Proprio ieri si parlava con un organizzatore di premi del Siracusano, che si parlava sulla coinè, si parlava sulla lingua, dialetto, lingua, e quindi lì ci sarebbe, abbiamo parlato per ore, chiaramente, sempre lì a parlare di queste cose, ma ci sarebbe tanto da dire e da fare, per la nostra, diciamo, lingua siciliana, perché ha tutti i crismi e tutte le caratteristiche per esserlo, grammatica, vocabolario, tutto quello che è, storia, ecco, soprattutto la storia, quindi è importante questo fatto. Ecco, c'è gente che adesso va riscoprendo la nostra lingua, le nostre radici, non solo come un fatto di parlata, come un fatto anche culturale, ma non comunque elitario, perché diventa se non un fatto sempre di partitico, non so, quindi invece ad essere, secondo me, adesso è un fatto sociale, ecco, un fatto nostro sociale, un fatto che dobbiamo amare tutti il nostro essere, perché è bellissimo. Ma non quello volgare, diciamo, un po' parlato così tanto. No. Io parlo della nostra beneamata lingua siciliana, che ha adoperato il Meli, veneziano, eccetera, eccetera. Certo. Poeti che hanno dato lustro, diciamo, alla nostra lingua. Non ultimo il signor Ignazio Buttitta. La storicità della lingua italiana, praticamente. Certo. le fondamenta lì sono. Lo diceva anche Dante, che andava a lasciare qua i panni nell'Arno, quindi un pochettino. Mm. Comunque, anche voi come radio, questo mi fa piacere per te, in questo caso, che porti avanti anche questo discorso, perché in ogni caso dai spazio a un poeta come me, ecco, mi reputo poeta, un po' velleitariamente. No, io credo che diciamo, porta avanti anche il dialetto siciliano, è chiaro. Ma diciamo che nel nostro piccolo come radio locale noi stiamo cercando in tutti i programmi, sia quelli di intrattenimento fatto di musica, giochi e così via, ma quelli che vogliono dare un'impronta maggiore parlando di attualità, di problematiche e così via, stiamo cercando di dare proprio un messaggio alla cittadinanza e ai nostri radioascoltatori, che vogliamo essere una radio che non è quella che vi fa trascorrere le giornate semplicemente, ma vi dà anche l'opportunità di avere dei messaggi precisi e diretti. Anche questo è la poesia, quello che abbiamo l'altro giorno parlato con la professoressa Giusy Sorci a proposito delle relazioni familiari. L'altra volta abbiamo interpellato, come ti avevo detto, anche il professore che ha scritto il libro sulle invenzioni, sui 150 anni di invenzioni tecnologiche. Antonio Presti per quanto riguarda Fiumare d'Arte, siamo anche nel suo piccolo, però nel suo grande, in piccolo non inteso come impegno, ma piccolo nel senso di magari spessore culturale, però dico culturale tra virgolette, il cuoco che ci dà le giuste indicazioni per quanto riguarda la ricetta. Sono le cose che servono soprattutto per chi ci ascolta e per trascorrere una giornata che non sia solo fatta di musica. Nella tua parte di poesia hai scavato, abbiamo cercato di creare una nicchia dove la gente che ci ascolta dice: ho ascoltato una bella poesia che mi ha divertito e che soprattutto ci ha fatto stare insieme bene. Ecco, e mi ha aperto la fantasia, mi ha fatto scoprire dei nessi logici tra le parole, e insomma ha utilizzato una lingua in modo creativo. Insomma, ci sono tante cose che possono ritornare. Ma sicuramente, guarda, questo è il grande merito delle radio locali, possiamo dire, e l'obiettivo deve essere quello, perché come dicevamo noi l'altra volta, non possiamo, la radio privata isolana o locale non può competere con i grossi network, quindi lì farebbe il grande errore di cadere, diciamo, nel trabocchetto di dare le notizie nazionali, e sarebbe fasullo, mentre invece noi dobbiamo parlare del nostro piccolo. Sì, ma quella che sta facendo CRM, e questa è una cosa positiva, molto bella, infatti io la seguo proprio questo. Da quando ti conosco io la seguo, e quindi sento che effettivamente c'è questa voglia di far conoscere il nostro piccolo, ma non il nostro piccolo, che poi è il nostro grande, perché noi dobbiamo partire dal nostro vicino per poter capire anche il lontano. Io non posso guardare l'orizzonte senza vedere la battigia, capisci? Mm-hmm. Questo è il fatto importante, e questo mi sono felice, perché tu lo sai, io ho sempre frequentato le radio da 30 anni, sì. Quindi, e che questo è l'obiettivo che effettivamente bisogna perseguire. Sì, io volevo rubarti due secondi per dire, ad esempio, noi abbiamo all'interno della radio Filippo Goloso, che è sicuramente una persona che sotto questo aspetto cura molto i contatti con l'esterno, quindi ha avuto ospiti anche telefonicamente importanti, parlando di problematiche proprio reali del territorio siciliano. La domenica, ad esempio, su Carta e Penna si parla proprio, io l'altro giorno casualmente mi sono trovato a sentire, e c'era telefonicamente un professore dell'ospedale San Raffaele qui di Cefalù, sì, dove si affrontavano proprio le problematiche del San Raffaele, che per adesso ce ne sono tante, io leggo sul giornale appunto. E quindi stiamo cercando di creare, e credo che l'editore di questa radio stia portando proprio il messaggio di creare una radio che sia della popolazione, sia della città di Cefalù e di tutto il contorno di Cefalù, perché Madonie, arriviamo anche a Caporlando e così via. Ma poi secondo me questo è l'unico modo per uscirne vittoriosi. radiofonicamente parlando. Sì, no, no, quello è il discorso che si faceva l'altro giorno mentre ci siamo incontrati, cioè che molte radio locali stanno cercando di fare i network nazionali. No, noi dovremmo fare solo e esclusivamente la radio locale, con il messaggio della persona locale, dove abbiamo le problematiche qui in loco. Se abbiamo il contatto anche con l'esterno, parleremo di un problema, non tanto del problema, ma della novità, di qualcosa che sia nazionale e che possa essere anche interessante per noi. Io poc'anzi ho dato la notizia del credito d'imposta, che è una notizia nazionale, partirà dal 3 di novembre, quindi il click per quanto riguarda le richieste del credito d'imposta, però sicuramente è una notizia che interessa anche alle aziende siciliane. Non so fino a che punto, questo non voglio essere uccello in malaugurio, ma conoscendo un po' il territorio delle aziende siciliane, e quando si va a analizzare in prima battuta il DURC, dico io ho delle difficoltà a capire quante siano le aziende che possono accedere al credito d'imposta, sì, avendo un DURC, sì, già abbastanza delicato, perché sai, quando non hai la possibilità o la forza economica di pagare le tasse, pagare i contributi ai dipendenti e così via, la prima cosa, non hai proprio gli introiti economici, cominci a tagliare da lì nel pagare, magari paghi ma paghi in ritardo, e quindi lì viene segnalato nel DURC come un cattivo pagatore, e quindi a quel punto lì viene un po' tagliato fuori da quelle che sono le possibilità di accedere a un credito d'imposta, a uno sviluppo Italia che magari dà l'opportunità della creazione delle microimprese e così via. Certo, comunque, certo, chiuso questo argomento, no, parliamo, questo di, poesia. Parliamo di poesia, che è la cosa più bella. Noi dobbiamo dedicarti questo tempo. Beh, ci salutiamo adesso come facciamo sempre. Ma guarda, io adesso ti metto di fronte a un bivio, visto che abbiamo parlato abbastanza. O ti dedico quattro versi che sono molto molto così, molto dolci, diciamo, ecco, sdolcinati un pochettino, però in maniera molto piacevole, certo, dedicate a una donna. O ti parlo di bambini che sono il nostro futuro e mi deve sopportare un pochettino di più, soltanto questo. No, no. O ne parliamo un'altra volta di no, bambini. No, no, allora, io quello che ti fa piacere, io amo tutte e due le cose, sia i bambini, perché avendo dei figli piccolini, fra le altre cose, poi fra le altre cose, come tu sai, io mi occupo di bambini per l'aspetto di formazione di catechismo, e quindi praticamente lì è un altro percorso piuttosto importante, dedicato, e poi sono stato volontario, ma lì non parliamo di tante altre cose. Comunque, però è interessante tutti e due gli argomenti, quello che ti fa più comodo, quello che ti fa più piacere, quello che... parliamo di bambini, dai, parliamo di bambini. Ok, dai. Il bambino è l'uomo del domani. Un bambino non è solo un bambino, è il mio, il tuo, il suo bambino. Se ti chiede un perché, dagli la mia, la tua, la sua risposta, e con un sorriso accendigli la luce che guida i suoi decolli. Un bambino desidera conoscersi, incontrarci, sapere del mare, del cielo, dei colori, desidera capire i suoi confini, la sua parte, l'universo che si apre ad ogni passo. Un bambino è un nuovo continente, l'avvenire, un altro nostro giorno che rinasce per dare all'uomo un'altra eternità. Quando cerca un appiglio, diamogli la mano, e con la mano offriamogli la vita, la fantasia, la realtà che sfiora i nostri sogni, questo mondo ubriaco di dolcezza dove si accende e cresce la sua alba. La vita, come sai, è un ponte sospeso sull'ignoto, e un bambino è come un aquilone che vola sopra il fiume dei perché. Se ti chiede chi siamo, digli che siamo i figli di Noè, fratelli delle capre e degli uccelli, uomini in provetta che vorrebbero salvarsi un'altra volta salpando per l'isola promessa, la terra dei giovani e dei vecchi, dei poveri e dei ricchi, dei bianchi e dei neri, la terra dove abbandonammo la nostra inesplorata umanità. Un bambino non è solo un bambino. Amalo per me, per te, per il mondo che aspetta l'uomo del domani. Grazie e buona giornata. Un bacio a tutti i bambini del mondo. Notizie curiose, idee e tanta musica. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine, certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli. E se non hai tempo, macelleria Arcangelo Cipriano ti viene in aiuto proponendoti tanti preparati di vario genere. Macelleria Arcangelo Cipriano, via Umberto I 52 a Cefalù. Telefono 0921 42 10 99. L'amore per le piante a Cefalù è Hobby Garden. Piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore. L'amore per le piante. Via Montessori, Cortile 3, Contrada Pacenzia. Telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova a Campo Felice di Roccella. Manutenzione di parchi, giardini, residence, prati. Contrada Pista Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella. Telefono 0921 428 927. Vivai Cova, di Fabio Cova. La convenienza di acquistare da chi produce. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Cultura, arte e sapori. Al ristorante Il Berillo. I sapori antichi della cucina tipica del territorio madonita, utilizzando prodotti selezionati e di prim'ordine. Al ristorante Il Berillo, menù degustazione a 19 euro. Squisita pizza tradizionale fatta con l'impiego di prodotti di qualità ad un prezzo modesto. Cucina e pizze senza glutine. L'ampia sala in stile rustico è ideale per cerimonie, feste e banchetti. E nel giardino e all'interno del locale, aree giochi attrezzate per i più piccoli. Ristorante Pizzeria Il Berillo. Si trova a Gratteri, nel cuore del Parco delle Madonie, a 15 km da Cefalù, con comodo parcheggio e una splendida terrazza con un panorama incantevole dove si possono godere tramonti mozzafiato. Per info www.ilberillo.it. Telefono 388 69 275 69. Vieni a Cefalù dal 28 ottobre al 1 novembre per la manifestazione Mangia Italiano, Vivi Meglio. Eventi, spettacoli, degustazioni enogastronomiche e tanto altro ancora per animare le tue serate. Per il programma dell'evento e informazioni, collegati al sito internet www.mangiaitalianovivimeglio.it o chiama il 327 57 69 805. Iniziativa patrocinata dal Comune di Cefalù con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. E ricorda, mangia italiano e vivi meglio. Dal 28 ottobre al 1 novembre a Cefalù. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. Slalom. Flashback. Volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa. E anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. Le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire, ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. È una notte come tutte le altre notti. È una notte che profuma di avventura. Ho due chiavi scavi per la stessa porta, per aprire il coraggio e la paura. Vedo un turbineo di gente colorata che si affolla intorno al ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono, è la notte dei desideri. È la notte dei desideri. È la notte dei desideri. È la notte dei desideri. Vedo Cristoforo Colombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine, tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano e diventano di sabbia. Al passaggio del momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata e non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Nella notte dei desideri. Nella notte dei desideri. Nella notte dei desideri. Nella notte dei desideri. Differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro. Sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia un errore. E io ho tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. E, elementare. Non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. We'll be right back. spegne i tormenti, le domande, a stare bene, a stare male, a torturare. Tiziano Ferro con La differenza tra me e te. Vi ricordo che siete sulla vostra radio, questa è CRM Happy Radio, la radio che potete sia ascoltare che vedere tramite il nostro sito internet che è www.crmhappyradio.it. 0921 92 32 92 335 56 37 251. Salutiamo i ragazzi del Golden Bar che io e Simone abbiamo. Slalom Flashback. Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi, e scusa in fondo, scusa tu che dai. M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata. Versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sala e ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo, scusa in cambio tu che dai? Ricordo che oggi pomeriggio il programma On The Road andrà in onda a partire dalle 17, in quanto si troverà all'interno del supermercato PAM di Ferdico per l'estrazione, quindi l'appuntamento dalle 15 alle 17 viene spostato il programma delle due simpaticissime ragazze Toc Toc. Adesso continuiamo ancora, lo facciamo però perché siamo intorno alle 12.04, poi dobbiamo sentire anche il nostro cuoco che ci darà deliziosamente la ricetta del giorno, ma prima dobbiamo sentire le notizie e i consigli commerciali. Sono le 12 e 4 minuti. L'ora esatta vi è offerta dall'orologeria Dalla Vincenzo. Corso Ruggero 34, Cefalù. Opening. Discoteca Calton Riviera. 31 ottobre 2011. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Come già anticipatovi prima, abbiamo il nostro consueto appuntamento con il nostro buon cuoco Alessandro Orefice. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. Allora, come stai? Hai trascorso un buon fine settimana? Sì, abbastanza travagliato. Qui abbiamo avuto dei gruppi molto numerosi, ma tutto è andato bene. E, insomma, abbiamo trascorso un buon fine settimana. La gente è uscita soddisfatta di quello che ha mangiato. Direi proprio di sì. Allora, oggi cosa ci hai preparato? Facciamo un graziosissimo antipastino che comunque nelle nostre tavole può essere anche utilizzato benissimo come secondo piatto. E sono degli involtini di melanzane gratinati al forno. Scusami un attimo. Io ricordo sempre ai radioascoltatori che queste ricette vanno scritte, perché stiamo preparando, come già abbiamo scritto anche stamattina su Facebook, che praticamente a novembre, quindi molto probabilmente dalla prossima settimana, partirà un concorso dove diremo qual è la ricetta di giorno 21 di ottobre detta dal nostro Alessandro Orefice. Chi praticamente indovinerà, chi sarà scotto quando noi preferiamo tagliare le rondelle che verranno utilizzate, che ne so, per fare la nostra classica norma, per andarle a servire così fritto, così per come vengono, e in caso alternativo le andremo a tagliare in lungo, quindi dalla parte più lunga. Okay. Se non abbiamo proprio una affettatrice possiamo farlo tranquillamente con un coltello e taglieremo le melanzane con una larghezza massima di un centimetro. Le andremo a friggere e subito dopo stendere sulla carta in maniera tale che l'olio in eccesso verrà assorbito dalla stessa. Okay. A parte prepareremo un fondo di una cipolla, giusto la mettiamo a rosolare per un attimo, e poi andremo a porre il pomodoro in salsa e poi una cosparsa molto molto abbondante di parmigiano reggiano. Metteremo in forno per appena 10 minuti alla temperatura di 200 gradi, perché serve proprio per farli gratinare, quindi far venire fuori quell'effetto dorato che va a migliorare anche la presentazione del nostro piatto, e subito dopo praticamente li andremo a servire su un piatto guarnito possibilmente da delle foglie di basilico molto fresche. Siamo svenuti qua, eh? Tu ci fai svenire a quest'ora in maniera particolare, ci prendi per la gola. Sai io che Simone, che è il nostro... Mi è già successo con un'amica attrice, una nota attrice, che è Giulia Michelini, la trovate possibilmente in qualche foto sul mio profilo di Facebook, è praticamente una assidua cliente, visto che stanno girando la nuova parte di... squadra antimafia. Okay. E praticamente il suo commento ha detto che De Silva che sarebbe il suo storico nemico. Tutte belle cose. Grazie. Benissimo. Sempre della tua ceria Mignon Catering. Stuzzico è ideale per festeggiare compleanni e ricorrenze. Thank you. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Continuiamo a parlare di musica, ritorniamo a casa nostra, lo facciamo con la bella Emma Marrone, che ha avuto questa esplosione ancora più forte grazie al Festival di Sanremo. Sarò libera. E mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui, e poi mi sento un po' strana e mi trema la mano, mi manca l'aria se tu non sei qui. Sto forte forte e sai che non si poteva, e sarò libera di poterti dire sarà sempre amore magico, sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male, e poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché tu sei cosa bella e non meriti del male. Ed è bello che ora i nostri occhi sembra che si cercano, non han più paura dello specchio che temevano, eri dolce la prima sera in macchina al parcheggio, io t'ho stretto forte forte ed è lì che si poteva, e sarò libera di poterti dire sarà sempre amore magico, sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male, e poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei cosa bella e non meriti del male. Baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei cosa bella e non meriti del male. Ed è bello che ora i nostri occhi quasi si somigliano, non ho più paura dello specchio che vedevano, eri dolce mentre mi baciavi ieri sera, io ti tengo stretto forte, lo farò una vita intera. Che bella questa canzone di Emma Marrone, richiestissima al nostro 0921 92 32 92. Ringraziamo la nostra amica Francesca che ci ha chiamato da Termini Imerese. Ancora musica italiana, questa è nuovissima, di pacca, come si suol dire. Lui è Antonello Venditti, il cantautore per antonomasia di Roma. La canzone si intitola Unica, come unica la bella Pippa Middleton che viene corteggiata noi da Justin Timberland. Parliamo, noi due non ci vediamo, noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che dell'errore abbiamo fatto amore, noi due, due arterie diverse dello stesso cuore. Tu ora dove sei? Se vivi un'altra storia, con chi stai? Chi ti prenderà? Passa il tempo lento, mi giro e mi tormento, e se ti chiamo lo so che trovo sempre spento, perché non ci parliamo, perché non perdoniamo, noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Dopo il matrimonio della sorella Kate, Pippa Middleton era balzata agli onori del gossip per la sua bellezza messa in mostra nel giorno proprio della cerimonia della sorella. Ricordate sicuramente quel abito verde esibito durante il rinfresco lo scorso 29 aprile, insomma, e da quel giorno la sorellina, se non aveva di bisogno, è andata a più non posso nel mondo del gossip, che è impazzita, è single, non è single, si vede, non si vede, è andata in vacanza di qua. Adesso, se avrò perso qualcosa di me al bar, tante chiacchiere malinconie, mentre qualcuno urla quattro caffè, ma guai a squalcirmi bandiere e passioni, meglio parlare di donne e TV. Gaetano e Giacinto sono due tipi che parlano piano, anche adesso, adesso che sono lontano, ma in questo frastuono è rimasta un'idea, un eco nel vento, fa che ti escirea. Alla carezza, i fili d'erba, come un pianeta ben educato, buca la nebbia di un paese lombardo, provincia di un mondo dimenticato. C'è chi attraversa la vita come una cometa e ci fa illudere che ci sia una meta, ma forse sono io che oggi sono strano, avrei bisogno di qualcuno che mi prendesse per la mano. Gaetano e Giacinto sono due tipi che parlano piano, anche adesso, adesso che sono lontano, ma in questo frastuono è rimasta un'idea, un eco nel vento, fa che ti escirea. Gaetano e Giacinto sono due tipi che parlano niente, con un solo passaggio uniscono milioni di gente, ma in questo frastuono... Ma come? Prima ci dai la notizia che è fidanzata con... Timberlake, il cantante, il bel cantante, e adesso ci dai un'altra notizia che convive felicemente col suo fidanzato Alex Loudon. C'è chi però non si perde d'animo, e quindi è quello che sta facendo questo bel cantante, che continua ad dichiararsi di essere veramente impazzito per la piccola di casa Middleton. Nonostante la presenza comunque incomprante del fidanzato, di lei, lui cerca a tutti i costi ha il desiderio di conoscerla, per anche solo scambiarci due chiacchiere. La piccola di casa quindi cederà la lusinghe di uno dei cantanti più affascinanti del panorama musicale mondiale? Chi lo sa? Non si sa. Salutiamo Fabio che ha richiesto questo pezzo che già sentite in sottofondo. Io vi ricordo che comunque questa è la vostra radio, e CRMP Radio. La sentite su in FM, ma la potete sentire tramite streaming www.crmpradio.it, 0921 92 32 92 335 56 37 251. Buon ascolto Fabio. E tanta musica. I'll take you to the candy shop. I'll let you eat the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have as many as you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have your way. How do you want it? Gonna wreck a thing up. Should I push up on it? Temperature rising to the next level. Dance floor packed as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby. It's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of a rental. On the beach, in the park, whatever you're into. I got the majestic, got the love. You got the heavy fans, giving you a house brother. Got your watch, show me how you work it. Alright, get on top, bouncing around like a low rider. I'm seasoned sweat, but when it comes to the shit, work out the sweat, then you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hands. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. To me, baby, nice and slow. Climb on top of a ride like you're in the rodeo. You ain't never heard a sound like this before. Cause I've never put it down like this before. As soon as I can put the dust pulling on my zipper, it's like a race who can get undressed quicker. How ironic is the watching the thongs. Have been thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Lights on the lights, I feel like from behind. So seductive, you should see the way she whine. Or it's a slow-mo on the floor when we grind. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I've got. I'll have you spending all you've got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Go what we do, and where we do, the things we do are just between me and you. Go what we do. Candy shop, shop, lolly, lolly, pop, pop. Don't you stop, stop. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have you spending all you've got. Keep going till you hit the spot. I'll take you to the candy shop. Whoa. For one taste of what I got. I'll have you spending all you've got. Whoa. Keep going till you hit the spot. Slalom. Flashback. Oh, persona scoccerà. Meglio è un silenzio che vuol diventare musica, a cantare insieme io con te. È un coro, è un grido che più ce n'è. Meglio è, oh, oh, oh, oh, oh, oh. È il mio amore nel tuo amore. È l'amico, è il più deciso della compagnia, e ti convincerà a non arrenderti anche le volte che rincorri l'impossibile, perché lui ha, l'amico ha, il saper vivere che manca a te, ti spinge a correre, ti lascia vincere, che un amico più basta. Gelosia di te, per ogni tua pazzia ne fa una malattia, tanto che a volte ti vien voglia di mandarlo via. Però lui no, l'amico no, per niente al mondo io lo perderò. Litigheremo sì, lo sa lui perché è pure il mio miglior amico. Valeria Rodriguez si è messa alle spalle tutto il suo, tutto il discorso che girava attorno a questo video hard messo in rete dal suo ex fidanzato quando lei aveva 17 anni, anche se le male lingue hanno detto che non era così che avesse 17 anni, ma che era un attimino più grande, quasi 18enne. La notizia invece sta facendo il giro al mondo nel web, infatti Belen Rodriguez si vocifera che è incinta. Speriamo bene per lei, Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Through these city streets I walk alone, passo tra la folla che non Allora, abbiamo sentito tutto per intero questo pezzo che è veramente delizioso, sta andando abbastanza bene, è stato richiesto e non l'abbiamo messo. Allora, ritornando al discorso che si faceva prima, a Belen Rodriguez, noi cosa possiamo fare? Di fargli tanti auguri, noi continuiamo ancora a parlare di musica, ma prima vi diamo dei consigli, le notizie e ci sentiamo dopo con un bel flashback.